fuori. Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione e grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Grazie anche a tutti quelli che ci scrivono, naturalmente, particolarmente a Manuela che ci ha mandato una segnalazione preziosa, e ci sentiamo.